Incontri di Gianfranco Fabi. Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore. Con questa musica, con queste parole di Sergio Endrigo, ci vuole un fiore, iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica, quanti ci ascoltano? Buongiorno, buon pomeriggio Roberto Snaidero. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Roberto Snaidero è presidente di Federlegno Arredo e queste parole appunto di Sergio Endrigo, per fare un tavolo ci vuole il legno, sono proprio, direi che entrano in argomento. Il legno è l'elemento fondamentale, non l'unico penso ormai per fare i mobili, ma resta un elemento fondamentale. Ma il legno è la materia prima per eccellenza. Usiamo anche altri materiali, ma principalmente il legno. E poi c'è il lavoro delle persone, forse. Certo, Enrico non lo dice, ma lo lascia capire. Ci vuole la passione, ci vuole l'intraprendenza, ci vuole la capacità delle persone, il lavoro di chi li progetta, di chi li esegue, di chi li vende. La grande filiera del mobile è una grande filiera. Cosa vuol dire essere appunto il settore del mobile nella realtà italiana? Ma guardi, Federlegno Arredo è l'associazione di riferimento per quanto riguarda il settore del legno arredo. Federlegno raggruppa 11 associazioni, partiamo quindi dalle prime lavorazioni del bosco fino ad arrivare al prodotto finito. Oltre a questo abbiamo anche il settore della luce, il settore degli allestimenti in fiera, quindi è una federazione che raggruppa un po' tutto. Io ho 2750 associati, siamo una molto variegate. Piccole e grandi imprese, sì, soprattutto piccole. Soprattutto piccole. Noi mediamente abbiamo una media di dipendenti di circa 37 persone per azienda. Se escludiamo però i 10-12 grandi gruppi, vediamo che la media cala notevolmente e arriviamo a 10-11 persone per azienda. Quindi è questo il grosso nostro problema, tenere vicine queste piccole e medie imprese, perché le grandi imprese sappiamo che hanno la loro struttura, il loro sistema di marketing, il loro modo di muoversi verso l'estero, certo, verso sul mercato interno anche, e quindi la federazione cerca di aiutare queste piccole imprese. E che sono imprese un po' diffuse in tutto il paese, con alcune zone ovviamente, la Brianza tradizionale, il Friuli, la Via Adriatica, però l'industria del legno, l'industria del mobile è diffusa un po' in tutto il paese. Sì, sì, è tutto diffusa, diciamo, come giustamente diceva lei. C'è la Brianza, c'è il Trevigiano, il Veneto, c'è il Friuli, c'è il Pesarese, c'è le Puglie con tutto il polo dei produttori di divani, la Toscana con tutte le sue medie e piccole imprese che producono il mobile classico, quindi siamo un po' dappertutto in Italia. Ecco, ed è un po' un'industria rappresentativa dell'industria italiana nel suo complesso, proprio delle piccole imprese, questa diffusione territoriale, i distretti, una grande capacità di puntare anche sulla qualità, sul design, sulla moda, certo, in un certo, certo, senso, certo. Quindi l'industria del legno, l'industria del mobile riassume un po' le caratteristiche dell'industria italiana nei lati positivi, ma anche in quelli negativi, in quelli delle difficoltà. Come sta andando l'economia del mobile? Guardi, parlare del settore del legno arredo in questo momento veramente viene da piangere, perché noi da 2008-2009 ad oggi abbiamo perso circa 39% del nostro fatturato. Nel 2008-2009 fatturavamo circa 42 miliardi di euro, di cui ne esportavamo 13-14. Ad oggi purtroppo abbiamo perso 13 miliardi di fatturato, abbiamo perso 50.000 posti di lavoro, 10.000 aziende hanno chiuso, quindi è una situazione veramente preoccupante. Preoccupante anche se abbiamo dei punti positivi per quanto riguarda l'esportazione, mentre sul mercato interno, e devo purtroppo rimarcare, questo 39% in meno proprio di caduta dei consumi. È in gran parte dovuto all'interno, una caduta per la crisi, la grande crisi che abbiamo vissuto, ma in cui non c'è stata poi una ripresa, un ritorno ai livelli precedenti. Siamo ancora a livelli molto più bassi di prima. Purtroppo non abbiamo ripreso quello che era nel passato. Non vediamo, allo stato attuale delle cose, ancora una luce chiara sul mercato interno, mentre quello che stiamo vedendo sul mercato estero è la positività. E qui si inserisce proprio il lavoro della federazione. Io ero presidente anni fa, poi è subentrato a me il Cavalier Messina, che poi è mancato nel suo periodo di presidenza. Mi hanno richiamato a fare il presidente, la prima cosa che ho detto: dobbiamo puntare sull'estero. Oggi questa strategia ci sta dando ragione. Stiamo facendo delle missioni all'estero, incontrando gli architetti, stiamo facendo delle fiere all'estero proprio per presentare il prodotto italiano. Questa è la nostra forza. Ecco, quindi si punta molto all'estero, la crisi all'interno è in parte strutturale, dovuta appunto al calo demografico, al calo delle nuove abitazioni e così via, ma in parte congiunturale. Voi avete proposto alcune misure al governo per cercare di facilitare, non tanto per avere delle agevolazioni, ma per facilitare appunto l'acquisto di mobili. Sì, noi abbiamo proposto ancora l'attuale governo di inserire nell'ambito della ristrutturazione delle unità abitative anche gli arredamenti con un credito d'imposta del 50%, quindi a costo zero per lo Stato, però ancora non abbiamo avuto nessuna risposta. In questo periodo preelettorale, post-elettorale, certo, ho avuto modo di incontrare tutti i leader politici in modo di presentare questa nostra richiesta. Adesso vediamo col nuovo governo se verranno prese in considerazione. Forse c'è qualche tempo da aspettare per un nuovo governo, però appunto una proposta per includere i mobili, considerarli come un investimento di ristrutturazione, sì, così esatto, come le opere murarie, esatto, come esatto, gli interventi sui riscaldamenti e così via. Esatto. Ecco, quindi sarebbe un intervento di agevolazione fiscale a questo esattamente punto. Ecco, che potrebbe suscitare appunto la domanda interna. Da nostri calcoli, se entrassero in funzione queste misure, abbiamo calcolato che ci potrebbe essere una crescita del fatturato pari a 1 miliardo, 1 miliardo e 200 milioni di euro. Quindi un respiro per le aziende, per queste medie e piccole imprese sparse in tutta Italia. Ecco, in questo senso lei dice un costo zero per lo Stato, perché aumenterebbe poi appunto la vendita di questi mobili, esatto, che a cui è collegato poi l'IVA e le altre imposte. Esattamente. E quindi si avvierebbe un po' un circuito positivo sul fronte economico. Esattamente. Ecco, su questo fronte però interesse ma decisioni nulle, quindi si aspetta un nuovo governo, una nuova possibilità. Siamo ansiosi di incontrare i personaggi del nuovo governo proprio per ribadire queste nostre richieste. Mi pare che i leader che abbiamo incontrato in campagna preelettorale hanno dato la loro disponibilità a prendere in considerazione queste richieste fatte dalla Federlegno. Adesso vedremo se dalle parole si può passare ai fatti. Ecco, la situazione politica non è, possiamo fare una piccola parentesi, non è molto, molto chiara, non è, si sta evolvendo dopo le elezioni ancora con molti contrasti. Lei deve essere ottimista per contratto forse, però c'è abbastanza preoccupazione anche sul fronte della realtà politica, di come la politica possa affrontare i problemi nei prossimi mesi. Ma io sono molto preoccupato, le dico subito. Non so quale sarà il prossimo governo, però vorrei ricordare ai nostri politici che abbiamo tante queste medie e piccole imprese che stanno soffrendo. Bisogna correre, siamo già in ritardo. Dobbiamo andare in giro per il mondo senza avere una guida, senza niente. Io dico, per favore, fate subito questo governo, cercate di prendere in considerazione le nostre richieste, perché altrimenti andiamo a scomparire come settore. E tenga conto che il settore dell'arredamento nel mondo, made in Italy, è invidiato, è copiato, e questo ci fa mantenere ancora vive le aziende in questo momento di grande crisi interna. Ecco, quindi c'è un settore che ha ancora una propria capacità. Ecco, tra l'altro, magari ne parleremo più avanti, c'è in vista il prossimo mese il Salone del Mobile a Milano, esatto, che sì, è la più grande manifestazione italiana, internazionale, forse non solo di questo settore, una delle più grandi come manifestazione capace di attirare appunto sia espositori sia ovviamente guardi, visitatori. Il Salone del Mobile si svolgerà dal 9 al 14 aprile. Abbiamo oltre 2.700 espositori rappresentati sia aziende italiane che aziende estere. Quest'anno, oltre al mobile, ci sarà l'ufficio e la luce, perché noi abbiamo la biennalità. L'anno scorso abbiamo fatto la cucina e il bagno, quest'anno la luce e l'ufficio, con 340.000 visitatori che provengono da tutto il mondo. Abbiamo fatto recentemente una conferenza stampa di presentazione del Salone del Mobile, invitando proprio nei nuovi palazzi di Unicredit circa 400 giornalisti provenienti da tutti i paesi, erano 120 giornalisti dall'estero più i giornalisti italiani. Quindi questo Salone del Mobile, che è la manifestazione numero uno in campo mondiale, è un veicolo di traino non solo per il settore nostro ma anche per la città di Milano. Ecco, ma qual è la sensazione da parte appunto delle aziende? C'è anche da parte delle aziende estere una ricerca di essere presenti in questo salone? Certo che sì. Diciamo che purtroppo gli spazi sono quelli che sono, non riusciamo a soddisfare tutte le richieste, ma tanti esteri, adesso non so quante sono le aziende estere che saranno presenti adesso qui a Milano, però tanti ci chiedono di partecipare al Salone del Mobile. Perché? Perché l'afflusso di persone, l'afflusso di visitatori professionali proveniente da tutti i paesi, anche per loro è un momento di marketing, di presentazione del loro prodotto a questi professionisti. Ecco, ma si può dire così, la sensazione, lei appunto parlava delle richieste superiori alle possibilità anche di accogliere queste aziende, che c'è almeno a livello di volontà e di prospettiva il fatto di poter superare questa crisi ed entrare in un circolo positivo dopo appunto una crisi che è stata fin troppo lunga? Ma questa è la speranza. Sappiamo, come mi ripeto, il nostro problema è sul mercato interno, non sul mercato internazionale. E da qui le aziende mie associate lavorano molto sui mercati esteri. Do dei dati, per esempio, sul mercato russo: il 2012 ha chiuso con più 15% rispetto al 2011, il mercato americano più 7,5-8%. Quest'anno e questa settimana avremo un consiglio direttivo di federazione dove vareremo una fiera da fare in Cina, dove sono questi i nuovi mercati cui noi dobbiamo affrontare, perché se rimaniamo chiusi in casa chiaramente non c'è speranza. Ecco, in questo punto i risultati almeno fino a questo momento sono positivi, anche negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Certo. L'export è continuato a crescere. E quanta parte l'export è del fatturato delle imprese italiane? Mediamente siamo sull'ordine del 35%. Però abbiamo delle punte con alcune aziende che hanno addirittura, certo, il 90%, qualcuno che neanche non esporta, però mediamente il 35%. Quindi è una percentuale che può aumentare, deve aumentare. Deve aumentare assolutamente. Ecco, su questo fronte, ecco, quello che avete come capacità del sistema di aiutare le aziende che esportano, c'è qualcosa che si può fare? Quali sono le vostre esigenze sul fronte proprio della capacità, della politica, della struttura anche organizzativa del paese, le ambasciate, i centri commerciali, una lice che si sta trasformando? Quali sono i punti deboli per le aziende italiane che vogliono esportare sul mercato? Guardi, io... come federazione siamo ripartiti nel momento in cui purtroppo il lice aveva chiuso. Io non posso aspettare che tutto l'iter legislativo andasse a compimento. Abbiamo aperto un ufficio come federazione a Chicago, abbiamo riferimenti su New York, adesso abbiamo aperto un ufficio a Mosca, a Londra, ne apriremo uno a Belgrado e apriremo anche un ufficio in Cina. Perché questo? Perché le aziende del settore legno arredo possono avere un punto di riferimento sul territorio. Quindi fate un po' il fai da te, dato che mancano i supporti. In collaborazione con l'ICE, però è chiaro che essendo ripartito da pochissimi giorni non ha ancora, diciamo, la macchina ben oliata, e io non posso aspettare, io devo andare avanti. Ecco, su questo fronte, appunto, i mercati esteri, c'è questa presenza, diciamo così, promozionale, però ci possono essere anche degli interventi di carattere, magari anche in questo caso fiscale, amministrativo, che possono aiutare le imprese? Ma guardi, non chiediamo contributi assolutamente, se ci sono ben vengano, però non andiamo a richiedere per esportare. Noi sappiamo che noi abbiamo un grosso fattore positivo, che il nostro design e la nostra qualità. Tra l'altro una settimana fa abbiamo presentato un progetto fatto assieme al Ministero Commercio Estero su Emerge Italy, dove abbiamo fatto un concorso per portare su giovani architetti americani, e i primi 5 vincitori verranno al Salone del Mobile, e questo è un primo esperimento che facciamo sul mercato americano, proprio per portare gli architetti presso le nostre aziende, e poi porteremo dei giovani architetti italiani presso gli studi di architettura americana. Incontri. Per fare un fiore ci vuole un ramo, per fare il ramo ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole la terra, per fare la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore. Per fare tutto ci vuole un fiore, ancora con le parole e le musiche di Sergio Endrigo. Riprendiamo il nostro incontro con Roberto Snyder, presidente di Federlegno Arredo. Sergio Endrigo appunto ci ricorda l'importanza dei fiori, della bellezza, in fondo anche della gioia dell'offrire un fiore, ma anche come capacità concreta del fiore di diventare legno, e l'importanza del legno nella vita quotidiana. Forse ce lo dimentichiamo, che è un elemento così naturale, che in fondo è un elemento importante che noi incontriamo e che noi diamo un po' per scontato. Il legno invece ha una sua importanza. È una materia viva. Ecco, una materia viva, Roberto Snyder, viva nei boschi, ci piace andare in montagna, penso a tutti, ma anche nelle case e anche nelle città. In fondo ci sta un po' riscoprendo anche il legno nelle costruzioni. Certo. E non solo forse per l'ecologia, ma è anche un po' il ritorno all'antico. Il legno. Provi a pensare, guardi, Venezia vive sulle palafitte, sui tronchi, da tantissimi anni, è sempre lì. Quindi il legno è una materia, io sono innamorato, io sono nato, mio padre era inizialmente un falegname, ho vissuto diciamo così in mezzo al legno, ai trucioli, poi ha fatto la sua strada facendo quello che ha fatto, ma questo profumo, quando entro in una segheria, sentire il profumo del trucciolo, vedere da questo tronco che poi nascono questa bellezza di mobili come noi abbiamo in Italia, guardi, è una cosa fantastica. Possono nascere tante cose. Io sono appena passato dalla foresta di Paneveggio, dove si fa il legno per costruire gli strumenti musicali, quindi anche quelli sono basati sul legno. Con il legno si possono fare tante cose. Tante cose. Ecco, è un'industria come quella del legno, che sembra appunto un'industria tradizionale, un'industria antica quanto il mondo quasi, ma cosa vuol dire fare innovazione in un'industria di questo tipo? Guardi, innovazione, se lei visita secondo del mobile, ogni anno lei ha innovazione, ricerca. Tanti dei nostri competitor, io li chiamo competitor, vengono al Salone del Mobile per copiare diciamolo. Questi quei telefonini che poi dopo le racconto un fatto che due anni fa dei cinesi sono arrivati al Salone del Mobile in uno stand di un mio carissimo amico, avevano tirato sul letto e fotografavano col telefonino sotto il letto, no, proprio per copiare. No, purtroppo queste cose succedono. Noi cerchiamo di salvaguardare quello che è la proprietà intellettuale di queste aziende nostre, però è difficile porre freno a questa situazione. E quindi l'innovazione, si diceva innovazione, ricerca, nuovi materiali che inseriamo nel prodotto, il design sempre più avanti degli altri. Mi diceva un architetto tedesco tempo fa, gli ho chiesto, ma dico, se lei vede i cataloghi delle aziende italiane, molte di queste aziende italiane hanno dei progettisti, dei designer, degli architetti stranieri. Ho detto, ma spiegami, perché voi architetti venite a far produrre in Italia? Vedi, dice, c'è un particolare, portarlo dalla carta al prodotto finito è tutta una cosa diversa, perché noi facciamo sulla carta, però l'imprenditore italiano ha quel quid, ha quel sesto senso di poter dare quel tocco finale che noi non sappiamo ancora fare. Ecco, questa è la forza del nostro settore. Però purtroppo devo rimarcare un fatto, i giovani, noi stiamo cercando di inserire nel nostro settore dei giovani, perché l'età avanza, i vecchi falegnami un po' alla volta scompaiono, e qui è gioco forza mantenere vita, dare vita al nostro settore. Recentemente abbiamo fatto un istituto dove formiamo dei giovani per il nostro settore. Questa è l'innovazione. Giovani che possono essere inseriti anche nei lavori manuali, nei lavori di falegnameria, ma, o anche nei lavori appunto di progettazione, di ricerca. Certo. Ecco, ma i giovani di oggi come li vede? Come vede i giovani che entrano magari in azienda? Perché spero che ci siano ancora aziende che assumono dei giovani. Ma le aziende cercano i giovani. Probabilmente il nostro non è un settore prelibato, fra virgolette, come può essere qualche altro settore ad alta tecnologia. Forse tanti di questi giovani sono diplomati, sono laureati in materie scientifiche piuttosto che letterarie, dove chiaramente non possono essere principalmente impiegati nel nostro settore. Abbiamo gli istituti professionali dove si insegnava il mestiere, che oggi scompaiono gli studenti da questi istituti. Invece qui sta la forza di un paese. avere i giovani che imparano il mestiere. Ecco, Roberto Snaidero, presidente di Federregno Arredo, ha proprio una passione per il lavoro, per la trasformazione, per l'impresa. Ecco, questa passione come si può portare ai giovani? Forse danno un po' per scontato. Cosa dice a un giovane se entra nella sua azienda il primo giorno e deve dare a questo giovane un consiglio di vita più che un consiglio di lavoro? Dimenticare quello che ha fatto nel passato, partire da zero, perché tutti quando sono laureati credono di partire dallo scalino più alto. No, bisogna partire da zero, imparare, bisogna capire, perché poi non è solamente valido per il nostro settore, un po' per tutti i settori. Certo. Ecco. Quindi bisogna avere umiltà, entrare con umiltà in un'azienda. Ecco, ma forse questa situazione di difficoltà, di indubbia difficoltà, sta creando le condizioni, deve essere presa come un'opportunità per cercare di cambiare anche un po' un atteggiamento, di cercare, certo, è difficile dall'alto di un'esperienza magari dare delle indicazioni, però bisogna far sì che i giovani trovino degli spazi anche all'interno delle imprese. Ma gli spazi ci sono. È chiaro che questo momento è un momento particolare di crisi, quindi non è come alcuni anni fa dove entravano tanti giovani, cioè volevamo che entrassero tanti giovani nelle nostre aziende, però vedevo molti andavano, non so, in altri settori. Oggi penso che ancora le aziende stiano assumendo perché hanno bisogno del ricambio. Un ricambio che è anche un ricambio per molte aziende generazionale, molti imprenditori per fortuna invecchiano a lungo, mantengono le redini delle loro imprese, ma a un certo punto devono pure cedere le imprese ai loro figli oppure ai manager, oppure metterle sul mercato. Ecco, nel vostro settore, nel settore del legno, dell'arredo, del mobile, è un problema che è presente in questa fase. Sì, guardi, nel nostro settore non so, sono pochissime le aziende quotate in borsa. Anzi, sono tutte a carattere familiare principalmente. Anche le grandi imprese. Anche le grandi imprese, sì. Certo. Quindi questo ricambio ci sta e vedo che anche tanti giovani, che poi dopo i genitori li hanno mandati a studiare, architetti piuttosto che ingegneri, entrano con ottimismo nelle loro aziende di famiglia. Ecco, avviandoci un po' alla conclusione di questo nostro incontro, lei è sostanzialmente, abbiamo detto prima, è ottimista un po' per contratto e un po' per dovere, però guardando appunto alla realtà, ci sono molti problemi sul tappeto, c'è una sorema di instabilità politica, ne abbiamo parlato, però ecco, su quali fondamenta lei pone anche una prospettiva di un ottimismo, sulla volontà di poter cambiare e su un mondo, in fondo, un mondo anche che dobbiamo considerare nella sua globalità, ormai siamo nel sistema della globalità, che è un mondo che continua comunque a guardare alla crescita anche qualitativa, e in fondo il settore del mobile offre una risposta di qualità, non solo di quantità. Certo. alla qualità della vita proprio. Guardi, credo che il nostro settore sia un settore pervaso da ottimismo. Se non fosse così, non potrei pensare che quasi tutte le aziende al prossimo Salone del Mobile presentano dei prodotti nuovi. Non potrei pensare che le aziende mie associate non possono esplorare nuovi mercati, perché se ci fosse negatività saremmo tutti chiusi in casa a bruciare quel pezzo di tronco che purtroppo non potremmo utilizzare per fare il mobile al caldo. Ecco, e anche il Salone del Mobile, che appunto sarà a metà aprile, no? Mi diceva, è anche qualcosa che ha saputo aggiornarsi, non è più solo l'esposizione, è diventato un evento culturale, anche di carattere artistico, musicale, di carattere di incontro, quindi anche questa è innovazione. Ma guardi, noi abbiamo durante il Salone del Mobile il Salone Satellite, sono 740 giovani che presenteranno delle loro produzioni, delle loro idee, ragazzi che vengono da tutto il mondo naturalmente. E la stessa cosa faremo anche al mese di ottobre, perché Federregno Arredo è proprietario, abbiamo appena acquisito il 100% delle azioni del Made Expo, che diventerà biennale ad ottobre. Anche la stessa filosofia, proprio vogliamo trasmettere su questo nuovo evento fieristico. Ecco, quindi un mobile visto non solo come una cosa utile, ma come una cosa che accompagna anche la vita delle persone, che può essere una rappresentazione un po' del modo di concepire, e quindi un invito anche un po' a rinnovare magari qualcuno i vecchi mobili che hai in casa per cercare di... Io mi auguro che cambino ogni anno i mobili. Lo so che è una cosa impossibile, però tante volte mi dicono ma tu fai dei mobili che durano 15-20 anni, non riesco a cambiare perché la tua cucina è ancora perfetta come l'ho appena acquistata. Questo fa parte un po' della qualità del design che noi come aziende abbiamo voluto trasmettere ai nostri mercati. Io ho un fratello che viene negli Stati Uniti, dove è da 10-15 anni ormai che opera nel settore del contract negli Stati Uniti, con grande successo, perché il made in Italy, lui vende il made in Italy, mi dice, perché vendere quattro mobili cosa vuole? Certo. Però vende il made in Italy. Ecco, il made in Italy è ancora un punto di forza. Sì, è un grande punto di forza, un grande punto, è invidiato da tutti. E questo è un punto su cui possiamo cercare di ripartire, pensando appunto che le prospettive possono essere positive, perché noi siamo capaci di renderle positive, in fondo. Una grande fiducia delle persone in chi ci lavora e negli imprenditori. Questa è la nostra grande forza che ci viene dai nostri genitori. Grazie a Roberto Slaile, presidente di Federregno Arredo, di essere stato con noi, di avere portato un po' di ottimismo, direi di positività in questa situazione certamente difficile, certamente complessa. Cerchiamo di non complicarcela ancora un po' di più. Sono d'accordo. Grazie mille, grazie anche a Fabio Cantadori in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come le altre puntate di incontri, possono essere riascoltate dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.